24 mattino. Ben ritrovati a 24 mattino, alle 8 e 18 minuti è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani, ben ritrovata Deborah. Grazie Alessandro, buongiorno. Anche se sono un po' arrabbiato con te. Cominciamo bene la settimana? Cos'è successo? No, niente. È che trovi temi sempre interessanti che interessano molto anche me. E te li rubo? Vabbè dai, te li rubo no, però insomma, Guarda qua, possiamo fare due cose: o puoi denunciarmi, mi porti davanti ad un tribunale, oppure possiamo evitare tutto questo ricorrendo al negozio giuridico dell'avvocato Chiara Romeo, che saluto. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Può aiutarci a risolvere in via preventiva questo piccolo conflitto che si è scatenato in apertura di Soldi e Dintorni questa mattina? Sì, è lunedì mattina che fa litigare, esatto. Ma non bisogna. No, ma guardi, io e Alessandro andiamo molto d'accordo, un ottimo collega Alessandro. Detto questo, però, ci sono tanti piccoli contrattempi nella vita che a volte, come dire, ci ispirano anche a magari avviare delle conflittualità fino ad arrivare davanti ad un tribunale, ma insomma queste iniziative ci costano tempo, costano denaro, e a volte abbiamo la percezione, che non è tanto una percezione poi virtuale ma molto reale, che ovviamente ricorrere all'assistenza legale costi molto, le parcelle sono molto alte, e a volte chi necessita dell'appoggio di un avvocato rinuncia perché le consulenze richiedono iter troppo lunghi. La situazione della giustizia nel nostro paese la conosciamo benissimo, e muovendo da queste riflessioni è appunto partita l'avvocato genovese Chiara Romeo, che abbiamo appena salutato, che nel 2005 ha aperto nella sua città il primo negozio giuridico d'Italia. Presentando prima questa nostra trasmissione, il mio collega Alessandro Milan, avvocato, ha parlato della consulenza legale di strada. Non è esattamente questo quello che fa il suo negozio, giusto? Ci sono anche queste esperienze nel nostro paese, ma qual è la differenza? La differenza è che noi siamo degli avvocati indipendenti, dei veri e propri avvocati che avevano lo studio tradizionale, che hanno deciso di fare la propria attività con una veste nuova e una mente nuova. Cioè la veste è quella di stare a piano strada, ma naturalmente ogni veste sotto il vestito non ci deve essere niente, ci deve essere qualcosa, e questo qualcosa è una mente orientata verso una diversa visione della professione forense, che è quella della prevenzione della conciliazione delle controversie. Per cui noi facciamo consulenza e anche assistenza stragiudiziale, tendente giusto appunto ad evitare le cause. Quindi per si tenta di fare il possibile per evitare di arrivare in tribunale. Certo, infatti noi, per nostra regola diciamo statutaria, poi se per caso dalla nostra attività non esce un accordo, noi non faremo la causa, in modo che sia garantita al massimo la nostra indipendenza di giudizio nel caso si tratti di una consulenza, e di attività nel caso si tratti della nostra attività stragiudiziale. Cioè vogliamo che le persone sappiano che se noi consigliamo la causa o non arriviamo ad una soluzione, comunque noi non guadagneremo dalla causa, perché non la faremo. Certo. Ecco, tra l'altro c'è una modalità anche piuttosto singolare con la quale ci si può rivolgere a voi, singolare per modo di dire, questa è la natura della vostra attività: si arriva nel vostro ufficio senza bisogno di prendere appuntamento. Sì, si entra come in un normale negozio, quindi si entra e il parere o la... Ci sono delle file molto lunghe, avvocato Romeo? Come sta andando da quando siete partiti nel 2005, ormai 4 anni? Le persone, sa, è un avviamento, non è una cosa che... diciamo che il cliente italiano non è molto abituato a sentirsi dire che bisogna trovare un accordo. In generale partono tutti lancia in resta con l'obiettivo di uccidere l'avversario, ma invece esistono anche altre modalità che fra l'altro sono molto come dire, in voga, diciamo così, nei paesi anglosassoni. Bisogna che certi concetti entrino anche da noi. E certo, assolutamente, insomma, perché non si può vivere in una società in cui bisogna far fuori l'altro. Con l'altro bisogna andarci d'accordo. E infatti, insomma, se la professione legale tenta di uscire dagli schemi, in qualche maniera lo dobbiamo fare anche noi e cominciare ad abituarci all'idea che nei confronti del mondo legale si può avere anche un approccio diverso. Dopo Genova so che siete partiti con negozi siamo giuridici Rimini, anche in altre parti d'Italia. Sì, dove siete? Rimini, San Giuliano Milanese, Como, e stiamo avendo anche molti altri contatti con tanti altri colleghi che sono interessati alla questione. Certo. Naturalmente il nostro progetto trova interessato chi sente lo stesso tipo di disagio che ho sentito io quando mi è venuta l'idea e poi ho aperto. Qual era il suo disagio, avvocato? Il disagio era quello di avere una modalità di lavoro che non portava poi a nessun risultato, o nessuno o pochissimi risultati, perché se lei pensa che oggi una causa viene rimandata a novembre 2013, c'è un senso di frustrazione che non riguarda solo i clienti, riguarda anche gli avvocati. Anche la vostra professione. Certo. Quali sono, avvocato, qui siamo a Soldi e Dintorni, le tariffe che praticate? Le tariffe che pratichiamo sono tariffe che sono... abbiamo previsto diversi parecchi casi. Comunque diciamo che la tariffa base in questo momento sono 50 euro più IVA per mezz'ora di consulenza su una questione. È una tariffa combinata a tempo e a prestazione, diciamo, un parere fino a mezz'ora. Poi via via, non so, il parere più la lettera sono 150 euro e via così, insomma. Certo, voi proponete quindi, ci ha spiegato molto bene, la strada della conciliazione. Cosa succede, avvocato Romeo, nel caso in cui la questione si riveli superabile solo con una causa? Portate avanti l'assistenza legale al cliente? Come le ho detto prima, noi non ci occuperemo della causa e allora se consiglieremo al cliente una rosa di professionisti che non sono legati a noi da rapporti professionali, da rapporti economici. Questo per, come le dicevo, per garantire la nostra indipendenza e la sicurezza del cliente, insomma. Certo. Avvocato, le liberalizzazioni del ministro Bersani nel settore hanno incoraggiato nuove iniziative. Questa è una di quelle? No, io ho cominciato un anno e mezzo prima delle leggi Bersani. Si poteva anche prima fare questo tipo di iniziativa che ho fatto io, tant'è vero che poi il Consiglio dell'Ordine mio, visto che io poi ho rispettato tutti i parametri previsti dal codice deontologico, non ho avuto nulla da dire. Ecco, un bilancio, prima parzialmente lo abbiamo fatto, di questa sua attività che ha mosso i suoi passi a partire dal 2005, quante conciliazioni è riuscita a condurre in porto? E quali sono quelle che magari le hanno dato maggiori soddisfazioni? Quindi chi ha colto perfettamente lo spirito della sua iniziativa? Guardi, adesso i numeri, ma io posso dirle che... sa, poi in realtà ci sono moltissime persone che vogliono anche solo sapere quali sono i loro diritti. Perché molto spesso le questioni nascono perché c'è un fraintendimento sulla vastità del proprio diritto, no? Che finisce dove comincia l'altro diritto, il diritto della controparte. Quindi molto spesso anche solo dire a una persona, guardi che lei può arrivare fin qui, è già importante, perché questa persona capisce e magari si ferma prima di cominciare ad attaccare l'altro. Quindi fare dei numeri in questo momento, francamente, non so... No, ma a parte il numero, insomma, anche se c'era stata qualche esperienza che l'aveva particolarmente colpita in questo periodo, ma insomma è tutta l'esperienza che colpisce. Avvocato Romeo, io devo salutarla perché Soldi e Dintorni termina qua, ma ci risentiremo senz'altro presto, magari nel nostro altro contenitore, Salva Danaio, per spiegare ancora meglio in cosa consiste il vostro lavoro. Buona giornata. Grazie, arrivederci. Arrivederci, Alessandro. Ecco. Allora, tra poco Salva Danaio alle 12. Noi a Salva Danaio oggi torniamo un po' ad indagare nelle abitudini finanziarie delle famiglie italiane che sono indebitate. Oggi cercheremo di nuovo di spiegare come possono ripianare la situazione coloro che sono in grande difficoltà. C'è un nuovo strumento che è passato da poco al Senato, una nuova legge che permette di ristrutturare il debito passando dal tribunale. Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. È arrivato stamattina a Porto Empedocle il primo gruppo dei 140 migranti a bordo del cargo turco Pinar, al centro di una disputa da alcuni giorni tra Italia e Malta. L'Italia ha accettato di accogliere i migranti per ragioni umanitarie, ma ha criticato il governo maltese. L'Occidente si presenta spaccato al vertice ONU sul razzismo che si apre oggi a Ginevra, vertice accusato di impostazione antisemita. Per questo l'Italia non partecipa al pari di Stati Uniti, Canada, Olanda, Germania e Australia. Oggi parlerà il presidente iraniano Ahmadinejad. Il ministro all'economia Tremonti parla in TV, assicura i soldi per la ricostruzione dell'Abruzzo ci sono, e sulla crisi economica dice la paura di un crollo delle borse, di un'apocalisse dell'economia è finita. E riguardo al terremoto, oggi intanto nuova scossa nei castelli romani, una scossa di 2,3 gradi della scala Richter stamattina si è sentita con epicentro tra i comuni di Lanuvio, Genzano di Roma e Nemi. Infine il calcio, il Milan vince il posticipo di campionato 5-1 sul Torino con 3 gol di Inzaghi, agguanta al secondo posto la Juventus a meno 10 dall'Inter. E proprio Inter-Juventus ha una coda polemica per i cori razzisti contro il nerazzurro Balotelli, con Moratti che dice: avrei ritirato la squadra. E ieri sono arrivate le scuse della società bianconera. Sono le 8.34 minuti, il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. Allora, la domanda è questa. Gli europarlamentari italiani sono mediamente dei fannulloni, degli assenteisti, dei trasformisti, e leggo anche dal sottotitolo di un libro, degli inefficienti, degli inaffidabili, eppure i più pagati di tutti. Esce l'Eurocasta italiana, uscirà tra qualche giorno, edito da PM, l'autore è Alessandro Caprettini che è con noi. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. È stato per Il Giornale dal 2002 al 2008 e, come dice lui nella prefazione, ridendo parecchio ma più spesso arrabbiandomi anche di brutto, inviato per Il Giornale appunto a seguire quello che nelle sacre stanze dell'Europarlamento a Bruxelles e Strasburgo si decide. Allora, l'Eurocasta italiana, la risposta sta nel titolo. Insomma, come siamo mediamente? Com'è l'esemplare medio dell'europarlamentare italiano? Ahimè, come hai potuto leggere nel sommario che accompagna il titolo del libro, è mediamente assenteista, pluripagato, assolutamente ignaro della conoscenza di una qualsiasi altra lingua che non sia l'italiano, almeno per la maggior parte. È persona che, come dire, si applica con estrema sufficienza ad un'attività che invece secondo me è di un'importanza primaria, non tanto e non solo per lui ma anche per il paese. Invece il problema è che non c'è, che non fa, che non sa. Tra l'altro, giusto per entrare, come si suol dire, con i piedi nel piatto, ci sono tante pagine sfiziose anche di quello che poi potrete scoprire, premesso che insomma si lavora anche tanto a Bruxelles, gli europarlamentari ce ne sono pluripresenzialisti al 98% eccetera, però insomma ci piace parlare un po' delle cose negative, se no che divertimento c'è. Allora, la cosa più bella che ho trovato proprio sta in apertura, tra l'altro, la cresta sui voli aerei, ce la spieghi? Niente, qualche anno fa, per evitare degli uffici ingombrati da ricevute, da controlli e quant'altro, la UE decise di rimborsare il biglietto di business ad ogni europarlamentare, facendo una media ponderata del costo di questo biglietto aereo. Così poniamo, per uno che veniva da Roma si rimborsava il biglietto Roma Bruxelles o Roma-Strasburgo in base appunto al prezzo di un biglietto business. Io racconto nel libro di come appunto mi piazzavo a Fiumicino aspettando anch'io l'aereo che mi portava, di incontrare tutti questi parlamentari, naturalmente del centro-sud, quelli che partivano da Malpensa e facevano un altro sistema, e di salire alla fine sull'aereo, ma di accorgermi di essere l'unico in business, nonostante tutti gli europarlamentari venissero rimborsati con biglietto di business. Che succedeva? Che viaggiavano in economy loro. Esatto, e quindi facevano già una piccola cresta. Certo, perché gli veniva rimborsato il business comunque, però viaggiavano scomodi per guadagnare un po' di più. Bella come trovata. Sì, però poi è peggiorata ancora, perché dopo 2-3-4 anni di quest'andazzo, alla fine mi ritrovai a Fiumicino solo come un cane e non riuscivo a capire come mai, visto che poi tutti quanti gli europarlamentari partivano come me a lunedì mattina. E scoprì che avevano scoperto i low cost e quindi non venivano più a Fiumicino ma se ne andavano direttamente a Ciampino per imbarcarsi su un Ryanair del costo di 120-150 euro andata e ritorno, ma ottenendone invece indietro 1200-1400. Bella questa. Senta, cos'è la sindrome Malfatti? Ricordiamo che era Malfatti e che... Allora, la sindrome Malfatti è quella che si dice che abbia, come dire, ottenebrato parlamentari e funzionari italiani che sono sempre con la testa girata, il collo girato verso il nostro paese. Malfatti era un ministro della Repubblica, un DC di vecchia data, di corrente fanfaniana, che venne elevato alla carica di presidente della Commissione, della prima Commissione europea. Era un ministro di non voglio dire di serie B, ma insomma di serie A-1, A2, diciamo. Che venne quindi nominato in questo importante e prestigioso incarico. Cosa accadde? Che circa sei mesi dopo la sua elezione ci furono nuove elezioni in Italia, nuove elezioni politiche. Lui decise di presentarsi, essendo eletto, decise che era meglio tornare a Roma, dove sperava di fare il ministro, come poi riuscì, ma dopo un anno, piuttosto che continuasse a starsene a Bruxelles. Perdemmo un'occasione. Ma soprattutto facemmo capire agli altri europei che a noi dell'Europa, pur ce ne interessa poco, a piena voce non ce ne importava nulla. No, ma tra l'altro questo è tipico, cioè moltissimi italiani vengono eletti all'Europarlamento e poi tornano, non si sa dopo uno, due, tre anni, tradendo secondo me il mandato degli elettori. Io ho fatto i conti di tutte le legislature, già la percentuale era abbastanza alta, in quest'ultima legislatura ha sfiorato addirittura il ridicolo, noi siamo al 50-60% degli europarlamentari che... ha deciso di lasciare l'Europarlamento e tornarsene indietro. Accidenti, uno su due. A questo proposito vogliamo sentire, non proprio a questo stretto proposito, però siccome l'ha fatto anche lei, Mercedes Bresso, che oggi è presidente della regione Piemonte, l'abbiamo sentita, tra l'altro sta in viaggio e sta andando proprio a Bruxelles, quindi l'abbiamo registrata poco fa, anche perché ha fatto una dichiarazione al Corriere della Sera qualche giorno fa, l'europarlamentare Bresso, ex europarlamentare, a dire ci sono soprattutto pensionati di lusso a Strasburgo, ha un po' voluto ridimensionare, però lei spiega, è la questione, è la legge elettorale che ci costringe a queste scelte, ma sentiamo che cosa ci ha detto la Presidente della Regione Piemonte. Le alternative sono o liste bloccate, in questo caso in Europa si mettono di solito persone giovani che sono in qualche modo a inizio della propria carriera politica, l'altro caso è quello come il nostro in cui occorrono moltissime preferenze, cioè per essere eletti da noi occorrono da 100 a 200 a 250 mila preferenze a seconda dei collegi. A quel punto l'unica soluzione è o grandi leader, ma da noi nessuno dei grandi leader vuole andare effettivamente in Europa, al massimo si candida in testa di lista per poi dimettersi, oppure persone che siano alla fine della propria carriera politica o che siano famose per qualche altra ragione. Chi va a Bruxelles e poi dopo poco ritorna indietro. Peraltro l'ha fatto anche lei, è stata un anno. Perché c'è questa, qualcuno l'ha chiamata transumanza, nel senso che si va, ma si torna? Di nuovo la ragione è sempre quella, siccome servono moltissime preferenze, sono persone in grado di prendere voti anche in altre consultazioni. E però c'è il mandato degli elettori, non sembra di tradirlo in qualche modo? Il vero tema è che gli elettori fanno pochissima attenzione all'Europa, anche i partiti fanno poca attenzione all'Europa. Io ho riflettuto molto su perché noi che siamo così europeisti siamo poi assenti in Europa. E secondo me la ragione è proprio che il meccanismo di funzionamento dell'Europa noi non lo abbiamo mai voluto, io credo, capire. In Europa bisogna esserci, starci molto, essere molto presenti, lavorare nelle commissioni, perché è come un treno molto lento, ma non si ferma mai e bisogna prenderlo al momento giusto. E noi andiamo sempre tardi e poi facciamo delle scene terribili, no? Dicendo ma non hanno tenuto conto dei nostri interessi. La vicenda Cofferati non è un mistero, la candidatura di Cofferati nel collegio nord-ovest non piace granché. Naturalmente la candidatura Cofferati sta dentro la logica che dicevamo, una persona nota per altre ragioni e che cerca un posto, diciamo, relativamente tranquillo, anche in questo caso sottovalutando invece il fatto che bisogna esserci almeno 4 giorni alla settimana a Bruxelles o a Strasburgo a seconda di dove si svolgono le riunioni. Io ho solo fatto notare, ma l'ho fatto notare credo Chiamparino, Penati, tutti gli osservatori, che era un po' stupefacente che rinunciasse a candidarsi a Bologna perché voleva stare a Genova e poi accettasse un posto che obbliga ad essere da un lato per 4 giorni almeno a Bruxelles e poi per il resto dovrebbe obbligare a seguire un collegio grande come le 4 regioni che dicevamo prima. Cioè c'è un rischio da pensionato di lusso, dice? Beh, questo rischio c'è, ma non riguarda solo Cofferati. La tendenza è il fine carriera. Allora, al di là della dichiarazione, della stoccata polemica finale della presidente Bresso, Alessandro Caprettini, c'è l'altro grande tema, sono gli europarlamentari, i più assenteisti, i più inefficienti, qualcuno dice, anche i più pagati, i nostri. Pare che debba cambiare dalla prossima legislatura, è così? Ma in effetti, diciamo, a metà della legislatura che si sta per chiudere è stato varato un nuovo regolamento che prevede a questo punto dei rimborsi a piè di lista. In realtà ci sono, come dire, delle occasioni che vengono fornite a chi non vuole adeguarsi. Prendiamo lo stipendio. Si è deciso di unificare le buste paga degli europarlamentari, anche perché i lituani o gli ungheresi prendevano solamente 1.000 euro al mese contro gli 11.000 concessi ai nostri. Parificandolo allo stipendio di un magistrato della Corte Europea, diciamo circa 8.000 euro. Però c'è il regolamento che prevede che ci siano alcuni anni di passaggio e quindi nessuno può escludere che i nostri continuino, e i nostri hanno già una cartina in tasca. Un articolo della Costituzione prevede infatti che i parlamentari debbano avere della nostra Costituzione prevede infatti che i parlamentari debbano avere un adeguato stipendio. E siccome nella Costituzione non c'è scritto rispetto ai nostri parlamentari se si tratta di deputati e senatori solamente, ecco che i parlamentari europei potranno accampare qualche diritto rispetto alla carta e quindi chiedere... Anche gli europarlamentari. Esatto. Ragazzi, quindi... ma conoscere la legge in Italia ti salva veramente da tutto, no? Bisogna conoscere nelle pieghe la legge, questo. Ho sbagliato tutto nella vita, non lo so se tu... sì, ma... Però attenzione, perché appunto in Italia è importante conoscere la legge, ma altrettanto lo sta divenendo in Europa. Cioè, voglio dire che noi parliamo dell'Europa molto spesso come se fosse una specie di entità indefinibile che non si sa bene quello che faccia. Ecco, io vorrei sottolineare che ormai il 72% della legislazione italiana, secondo quanto mi ha detto l'ambasciatore Nelly Feroci, che è il nostro rappresentante permanente a Bruxelles, è il recepimento di direttive comunitarie. Cioè ormai l'Europa decide su tutto, tant'è che mi è molto cara una frase che ho citato nel libro perché mi è sembrata molto divertente, di Andrea Moltrasio, che è un vicepresidente di Confindustria, ha detto proprio i rapporti con l'Europa, che mi ha raccontato che lui va disperatamente dai suoi associati a spiegare che a furia di rifiutare i menu europei, alla furia di rifiutare le portate europee, alla fine si rischia di essere compresi nel menu. Cioè, alla fine poi che cosa succede? Che se gli italiani non rispettano, non solo piovono multe, ma escono fuori dal gioco. Certo. Intanto siamo abbastanza assenteisti, non conosciamo le lingue, veniamo pagati molto. Questo è. Io ti ringrazio. L'eurocasta italiana, assenteisti, inefficienti, trasformisti, inaffidabili, eppure sono i più pagati di tutti, di Alessandro Caprini. Caprettini, esce credo il 5 maggio, edizione PM, ve lo consiglio, insomma d'altronde si parla di Europarlamento di questi tempi. Grazie Alessandro Caprettini, così come Mercedes Bresso ovviamente. Allora, 8:48 minuti, 2 settimane fa il terremoto terribile in Abruzzo, ieri il ministro Tremonti ha detto i soldi per la ricostruzione ci sono. Dopo 2 settimane, come detto, ci si riappropria le persone che hanno superato quel momento terribile anche della propria vita, una vita che può continuare anche e ripartire per esempio da una tesi di laurea. Io voglio salutare la professoressa Maria Grazia Cifone, che è preside della Facoltà di Medicina all'Università dell'Aquila. Preside, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi si può dire così, si riparte, oggi c'è la prima sessione di laurea dopo il terremoto. Questo è un po' l'emblema della ripresa per la nostra università, sono le prime sessioni di laurea dopo il terremoto, sono le lauree abilitanti all'esercizio della professione in fisioterapia. abbiamo, speriamo di averli tutti presenti, coloro che sono in condizione di laurearsi sono 34, purtroppo uno di loro però non ci sarà, ma lo vogliamo ricordare con un diploma in fisioterapia alla memoria, Lorenzo Cini, che purtroppo è morto sotto le macerie. E aveva completato tutti gli esami, era un passo dalla laurea, uno dei ragazzi più entusiasti che avevamo, anche uno dei più educati, più studiosi, quindi per mantenere viva la sua memoria faremo sicuramente tante altre cose, abbiamo in mente molte altre iniziative, ma intanto oggi abbiamo predisposto, devo dire, l'ho fatto io stessa, un diploma in pergamena da consegnare al suo papà, che sarà qui proprio oggi per ritirare questo diploma. Ecco, preside, il terremoto che ha colpito tutti indistintamente, però ha colpito anche gli studenti, no? L'emblema della casa dello studente, ma non solo, gli studenti che poi sono anche in un certo modo come i bambini, il futuro, insomma. L'Università dell'Aquila come va avanti? So che c'è stata anche una comunicazione sul web, avete ripristinato dei collegamenti per tenersi in contatto in qualche modo? Per fortuna, sì, grazie agli esperti tecnici informatici dell'Ateneo, praticamente il giorno dopo del dramma, del sisma, è stato riattivato un sito transitorio, provvisorio, che abbiamo però potuto utilizzare proprio per comunicare con tutti i nostri studenti. Io, come preside della facoltà di medicina, ho ricevuto circa 1500 mail al giorno da quel giorno lì. E poi nell'arco di 3 giorni abbiamo ripristinato il vecchio sito. Abbiamo anche chiesto a tutti i giornali, ai mezzi di comunicazione, di trasmettere le informazioni soprattutto attraverso i giornali, perché molti ragazzi sono nelle tendopoli e non hanno purtroppo accesso a internet. Certo. E quindi devo dire che in questo momento la comunicazione è la cosa più importante. Io rispondo singolarmente a ogni messaggio, a ogni mail, a ogni richiesta, e devo dire che il 99% dei messaggi sono di apprezzamento nei confronti di questa volontà di riprendere nonostante tutto, e anche domande molto tecniche, quando si farà questo esame, quando l'altro. Certo, quindi c'è la voglia di andare avanti. Tra l'altro io voglio salutare, se ci sei, Davide Terranova, buongiorno. Sì, buongiorno. No. Lei laureando, esatto. Cioè, oggi si laurea. Sì, tra qualche ora, in bocca al lupo ovviamente, come si suol dire in questi casi. Leggevo tra l'altro qualche dichiarazione che aveva fatto al Resto del Carlino, credo, dicendo lei non era lì, nel senso non era lì nel momento del terremoto, però dicendo come sto, si mente quando si dice bene, anche se si guarda avanti. Non si riesce a dire che altro, perché comunque bisognerebbe analizzare un attimino più a fondo la situazione di tutti. C'è qualche compagno che non ritroverà a questa sessione? Sicuramente Lorenzo, come ha detto la nostra preside, e altri compagni, di cui Danilo Ciolli, che è venuto a mancare anche lui. E basta, adesso si stanno comunicando che ci stanno indirizzando alla tenda per cominciare comunque la sessione di laurea. Sì, io non le voglio rubare, noi tra pochi minuti finiamo, ma credo che sia proprio alle 9 l'inizio. Sì, cioè, dove fate la sessione di laurea? In una tendopoli, ovviamente. Sì, naturalmente la facciamo in tenda, notizie sicure ancora non ci sono, però adesso ci stanno indirizzando verso la facoltà di medicina, e poi da lì decideranno, perché comunque i compagni non vogliono entrare nell'edificio perché comunque hanno ancora paura ed è naturalmente giustificabile, assolutamente comprensibile. Preside Cifone, lei invece dov'era il giorno del terremoto? L'ha vissuto in primo piano? Sì, l'ho vissuto, ero dentro casa e purtroppo sì, insieme alla mia famiglia, e effettivamente è stata una cosa che non dimenticheremo mai. Io devo dire, vengo da un'altra esperienza, essendo venezuelana avevo già vissuto un terremoto terribile a Caracas, speravo di non vivere più un dramma come questo. Quel terremoto morirono 2500 persone, e invece purtroppo sì, è stata una cosa drammatica. La casa naturalmente non è agibile, siamo sfollati nella costa anche noi, io faccio su e giù tutti i giorni l'Aquila Roseto, e devo dire però con grande determinazione i miei studenti, i colleghi, la facoltà, l'università in questo momento l'istituzione ha la priorità rispetto a tutto il resto, rispetto anche a tante questioni personali. E questa determinazione dei nostri ragazzi di voler riprendere qui in questa sede, chiaramente speriamo e contiamo molto che vengano messi nelle condizioni di poter alloggiare in questa sede, perché noi stiamo attivandoci per avere... Pronto? Sì, la sentiamo benissimo. Sì, per avere delle aule, per avere dei capannoni, per rimettere a posto le nostre aule che sono agibili. Naturalmente c'è qualche calcinaccio, qualche cosa, si deve ripulire un po' la struttura. Però è chiaro che se non ci saranno gli alloggi i nostri studenti vivranno dei disagi forti e non si può pretendere da loro di fare su e giù dalle loro sedi, alcuni abitano anche molto lontano e quindi si tratta adesso di capire come organizzare gli alloggi, certo, degli studenti, e quello credo sia la priorità assoluta. Per quanto riguarda il resto stiamo cercando di rimettere in piedi la struttura, che devo dire almeno queste di Coppito non hanno subito grossi danni e quindi per fortuna abbiamo comunque delle aule anche molto grandi, molto belle, che hanno resistito a questo sisma. Quindi e allora, no, ma io preside, la ringrazio così come ringrazio Davide Terranova, laureando tra poche ore, insomma, sosterrà, adesso alle 9 inizierà l'esame, in bocca al lupo a lei e a tutti gli altri laureandi, ovviamente abbiamo detto sono 34 e grazie per essere stati con noi. Ci fermiamo qui con 24 Mattino con Laura Marchesi e Alessandro Marcotuni in redazione, Filippo Aureggi oggi in regia, tra poco Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante come di consueto. Voi potete scriverci 24 mattino @radio24.it e ci ritroviamo domani.